Guardé quella coppietta che cammina, stringendosi le mani come do fiori. Cerchemo di capire quel che combina, da poco è sicura di noi. Se se potesse andare senza essere visti, vicin de loro e veder cos che fa, se potaria pensare che non esisti, che poche parole ste qua che me volve. Te voglio tanto bene, ma quanto, quanto, tanto, tanto, tanto, sto ritornando, antico e sempre bene. El è un incanto, te voglio tanto bene. In Cine per strada sul tram, o posati sul muro, sedisi coi occhi negli occhi, col chiaro e col scuro, te me volvei. Te voglio tanto bene, su di me ancora, te voglio tanto sul tram o posati sul muro, sedisi coi occhi negli occhi, col chiaro e col scuro, te me volvei. Te voglio tanto bene, su di me ancora, te voglio tanto bene. Te voglio tanto.